Bologna e l'area metropolitana sono la città e una delle zone più costose d'Italia. Bologna Comune è la quinta città più cara e come area metropolitana siamo i più cari dopo Milano. E questo incide pesantemente sulla vita delle famiglie, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e degli studenti. E pensiamo che non ci sia il pilota automatico e che quindi le politiche economiche siano obbligate. Gli enti locali possono fare qualcosa, i comuni, quindi abbiamo creato una rete di consiglieri e consigliere, di liste civiche e di liste di sinistra, a partire dai quartieri di Bologna con Sinistra Unita, con San Pietro in Casale Pubblica Solidale, Bentivoglio Solidale, Medicina Attiva, il consigliere di Rifondazione Comunista Granarolo. È un primo passo per costruire una rete che anche nei consigli comunali si batta per invertire le politiche economiche del centro-sinistra. In primo luogo rispetto ai consigli di amministrazione delle partecipate, che sono tutte in attivo e che incidono pesantemente sulla vita dei cittadini. Pensiamo a Tiper, all'aumento che abbiamo avuto a marzo, pesantissimo, del biglietto dell'autobus e degli abbonamenti, oppure delle bollette del gas di ERA. Noi pensiamo che i consigli comunali debbano intervenire, che i sindaci debbano intervenire, che debba intervenire l'Epore in quanto sindaco dell'area metropolitana sui consigli di amministrazione di Tiper, di ERA e delle altre partecipate per invertire le politiche economiche in questa città. Non basta qualche operazione di welfare washing per dare qualche casa pubblica a prezzi ridotti. 30 appartamenti sono una goccia nel mare per invertire la rotta. Bisogna intervenire sull'idea di città, sull'idea di area metropolitana. Se si pensa ad andare avanti con uno sviluppo economico basato sui più ricchi, che sono sempre più ricchi, mentre i lavoratori e le lavoratrici sono sempre più poveri. Pensiamo per esempio alla turistificazione della città. Ormai è diventato una città che vive soltanto di turismo e che pesa pesantemente tutto questo sulle tasche dei bolognesi. Non si può immaginare ancora un altro milione di viaggiatori e di turisti sull'aeroporto, perché poi da qualche parte bisogna metterli, e tutto questo significa aumentare ancora il costo per chi a Bologna la vive. Pensiamo che sia il caso di invertire la rotta prima che qualcuno si inventi la mortadella a doppio prezzo differenziata per residenti e turisti. Dal punto di vista amministrativo come vi muoverete con ordini del giorno? Sì, dal punto di vista amministrativo noi stiamo coordinando una prima campagna dentro i consigli, nel senso che a breve presenteremo in maniera coordinata ordini del giorno molto simili sia nei consigli di quartiere a Bologna che nei consigli comunali, chiedendo che i sindaci e le giunte appunto intervengano su Tiper e su ERA per utilizzare in maniera diversa gli utili di queste aziende partecipate, nel senso che noi chiediamo che si torni per esempio alla tariffa Tiper precedente a quella cambiata a marzo, che le bollette ERA siano diminuite rispetto agli utili che ha ERA. Stiamo andando verso l'inverno, le famiglie pagheranno bollette pesantissime per il riscaldamento, noi pensiamo che il mezzo miliardo che era fatto di utile sull'ultimo bilancio possa essere utilizzato per ridurre il peso del riscaldamento e del gas domestico sulle famiglie di tutta l'area metropolitana bolognese.